siete dei piccoli cialtroni che con l'inganno cercate di farvi scoperchiare delle inutili pentole dentro le quali c'è un brodo che conosciamo benissimo. Quindi non rompeteci le scatole con questa sagacia che io trovo detestabile. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Capannelli, non me l'aspettavo, è fantastica. Adesso volevo chiamare Di Pietro, vedere cosa ne pensa. È fantastico. Il messaggio è straordinario. Straordinario. Non credo che sarà possibile, lo voteremo solo noi, pazienza. La Capannelli accetterà. Io non lo so, però l'idea della Gabanelli è straordinaria. Io non avrei pensato che diventasse la prima in graduatoria, perché sono nelle prime cinque. Però un messaggio importante, una signora, una giornalista, un al di sopra, una contro i poteri forti, cioè un bel messaggio. Ora che accetti non lo so. Non vi fate abbindolare dal nome della Gabanelli, a parte... Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? La signora Gabanelli, che io stimo tantissimo, dovrebbe fare una sola cosa da persona seria, qual è? Dire chiaro e tondo: no, grazie, faccio un altro mestiere. Questa è la prima cosa. La seconda, ma come Grillo non odiava più o meno tutti i giornalisti dicendo che erano tutti venduti, forse fa un'eccezione per la Gabanelli perché dice lui è la giornalista d'inchiesta contro i poteri forti. Ma soprattutto... Beh, la RAI, una giornalista della RAI, vogliamo ricordare Grillo a un comizio durante la campagna elettorale, Parenzo, sulla RAI, che cosa dice? Sentiamo, senti, eppure candidano, diciamo, i militanti online del 5 Stelle, quelli che hanno votato per le Quirinali, candidano la Gabanelli. Scusate, perché se possiamo stare un po' tranquilli, chi è questo? Questo qui che sta riprendendo, lei chi è? È bellissimo. Dico, chi è lei? Dico, sono uno che sta riprendendo, sì, ma no, chi è? Sì, è un camera, ma di che televisione? La RAI, allora, per cortesia è pregato di uscire. Attenzione, in realtà non è la Gabanelli, perché lo stesso Grillo si aspetta la rinuncia della Gabanelli e lo dice esplicitamente, la rinuncia della Gabanelli, caro Parenzo, la rinuncia, dove cazzo sei innanzitutto? È un trucco sul torpedone. Mitico torpedone, ovviamente voglio un sondaggio questa sera dal torpedone, un sondaggio. Sì, molto nervosa, te lo dico subito. Non me ne frega nulla, voglio creare stasera voglio creare un caso, il torpedone deve essere, si deve fermare, farti scendere a pedate nel sedere, voglio fare un sondaggio. Posso dirti una cosa? Non me ne frega niente, un sondaggio sul, chi no, vogliono al Quirinale. Anche questo, sì, sul torpedone c'è anche una persona di colore. E beh, che vuol dire? Ma non sapevo che potessero viaggiare liberamente sui pullman. Ma sì, ma mica siamo in Alabama nel... Ah, scusami, no, non sapevo, che quando l'ho visto ho detto no, ma anche lei. Di decenni fa. Ma mi massacreranno per questa battuta, vedrai. Sì, comunque il problema fondamentale è che devi fare un sondaggio nel torpedone su chi vogliono al Quirinale. Probabilmente la Gabanelli rinuncerà, dice il Grillo parlante. La Gabanelli, allora, loro dovrebbe piacere. La Gabanelli è straordinaria, è una mossa vincente, straordinaria. Probabilmente non accetterà, e non Rodotà lo so. Sarà il terzo. Rodotà, perfetto. Allora Rodotà deve essere votato, perché abbiamo fatto. Noi andiamo verso questo. Se loro diranno di sì o di no, non lo sappiamo ancora. Tutta la gente che parla e vende parole, che solo Pinocchio non sente. Poi a un certo punto si rivolge a Bersani e dice: non ti piglio più neanche per il culo, non ti piglio più neanche per il culo, è numero uno, in questo momento è numero uno, senti. ho già fatto, ti sto facendo degli annunci, ma di cuore, con tenerezza, non ti prendo neanche più per il culo, non ti chiamo neanche più Gargamella, guarda, non te lo dico, ti chiamo signor Bersani, siamo a disposizione. Siamo a disposizione per cambiare, abbiamo bisogno di un segnale. Correggibile, allergico a tutte le prediche, Pinocchio di tutte le favole, che del grillo parlante se ne fregherà. E poi dice a un certo punto, ci pensi Bersani, poi iniziamo una collaborazione, ma la collaborazione che era una collaborazione televisiva, non ho capito. Comunque. Lo piglia per il culo. Sì, qualcuno ha detto che potrebbe diventare con la Gabanelli la Repubblica delle Manette. Chissà che non sia un'idea anche quella con cui ci potremmo togliere qualche soddisfazione. Quindi ci pensi, Bersani, ci pensi. E potrebbe essere veramente un inizio di una, chissà, collaborazione, può darsi, chi lo sa. Siamo qui, 800-24-0024, La Zanzara, Oliviero Toscani, ciao Oliviero, come stai? Ciao, state bene ragazzi? Non c'è male, bene. Non c'è male, caro Oliviero, ma ti sei pentito di aver votato Grillo oppure è sempre il numero uno in questo momento, no, detta la linea? Purtroppo è sempre il numero uno, purtroppo. Perché purtroppo? No, perché quando io sento dire questa cosa è una Repubblica delle Manette, fa paura di vivere in un paese dove si sento dire queste cose, ma d'altra parte è anche un paese che non vuole bene i suoi cittadini onesti. Perché? Cittadini, ma Repubblica disonesti, delle Manette l'ha detta Capezzone, Sì, vabbè, ma Capezzone è un mezzo politico, perché Capezzone non ha mai fatto niente, lui è il classico esempio di chi proprio non serve a niente, parla e basta, parla anche dicendo le cose che non servono a niente. Vabbè, non serve Capezzone a niente. Dai, Dio santo, Capezzone. Cioè, ma scusa, ti piace la Gabanelli al Quirinale o no? Ma io non so se mi piace la Gabanella Quirinale, sto facendo ragionamento, sto dicendo questo è un paese che non vuole bene ai suoi cittadini. Vabbè, adesso non parlare di cose generiche, no, generico, parlami della Gabanelli, parlami della Gabanella Quirinale, ti piace o no l'idea della Gabanella Quirinale? Ma non so, io penso la Gabanella è una donna, sì, mi piacerebbe avere una donna Quirinale che fosse onesta, che dicesse, dico la Gabanelli per adesso non ha fatto dei danni. Sulla... Ho capito, ma facesse il suo mestiere, ma perché deve andare al Quirinale? Cioè, che c'entra? Il Presidente della Repubblica è un mestiere, bisogna... Sì, ma insomma, i mestieri dei politici fino adesso sono stati fatti da persone poco affidabili. Sì, ma non è un motivo per votare la Gabanelli che fa le inchieste giornalistiche, giornalistiche, anche bene, ovviamente, ma io non ho detto che voterò la Gabanelli. Dillo che è una buffonata sta cosa della Gabanelli. Vabbè, se a te non piace posso capire, però che a te non piace non è che sia... No, è vero. Per tutti. Sto e Strada? Analizzando Gino come Strada? Mai in un paese civile viene fuori una Gabanelli come candidato a Presidente della Repubblica. Ma dal 5 Stelle viene, ma viene dal 5 Stelle, non è che viene fuori da chissà chi. Vabbè, viene fuori dal 5 Stelle, perché 5 Stelle vuole una giustizia, e tanta gente qui vuole la giustizia. E se ci dobbiamo accontentare di una Gabanelli, capisci quello che dico? Siamo in una situazione di emergenza totale. Meglio la Gabanelli di Prodi? Ma io penso di sì. Ma Prodi che ti piace o no? No. No, ma nel senso parlare di quei medici che ti raccontano che ti manca poco tempo, tu sei veramente un ammalato finale, sei pronto alla morte, ancora 3 mesi, poi ancora 3 mesi, poi lei non vedrà più. Cioè, siamo tutti malati terminali per Prodi, cavolo, ma che paese è? Cioè Prodi appena parla dici uno si tocca subito. No, ma parla ai malati terminali, forse ha ragione, l'Italia è un malato terminale. E quindi sarebbe perfetto allora. Sarebbe perfetto, se un medico, lo vestiamo da medico e aspettiamo di fare l'anestesia. Scusa, c'è un tweet perfetto di Luca Bizzarri. Un giorno di eutanasia totale. C'è un tweet di Luca Bizzarri che è meraviglioso. Brava la Gabanelli per carità, ma io preferirei Enrico Lucci. Dove si vota? Dai, su ragazzi. Sarebbe stupendo. Ma di che parliamo? Hai ragione, perché è un giornalista? Perché? Perché in televisione, fra questa menata della televisione, che tutto ciò che è in televisione diventa importante. Allora si passa tutti dalla televisione. Ho capito, ma il Grillo non è quello. Non è idiotizzato. Ho capito, ma è Grillo che propone. I grillini propongono la Gabanelli. Mica ma io. I grillini sono vecchi. Come sono vecchi? Sono vecchi anche loro, dai. Hai ragione. Arrivano con delle cose di 30 anni fa. Cioè la star televisiva per eccellenza. No, sono in ritardo anche loro sulle motivazioni, sulle idee. Sono vecchi di idee. Sono delle idee vecchie. Per esempio? Ma tutto quello che dicono l'ho già sentito, così si diceva anni fa, e chiaramente in Italia non succede niente. Sono tutte cose già sentite. Sei già pentito tu. Ma li hai votati tu questi qua, però, questa gente qua che ci fa credere che... Ti sei pentito già, Oliviero? Ma cosa dovevo votare? Chi doveva votare? No, quello hai ragione, quello hai ragione, quello hai ragione. Ma cosa vuoi che voti? Dio santo, almeno questi qua ci fanno discutere su dei principi. Però ti sei un po'... Sennò Casini, avremo ancora lì Casini, Monti. Ti sei già pentito però. Allora seguito con le palle. Ti sei già pentito però, Oliviero, dai. Ma no che mi sono pentito, cosa vuoi fare? È così, non c'era niente di meglio. Traffico, senti, torniamo tu, subito, sì, hai ragione, mai... hai ragione su questo, traffico, torniamo subito. La Zanzara. Non mi molesti il moschito, non mi molesti il moschito, non mi molesti il moschito, why don't you go home? A disposizione del paese Berlusconi, dimostrando una levatura di statista che assolutamente non ha avuto mai nessuno in passato, certo. E stiamo a parlare di ricatti da parte della sinistra. E stiamo parlando di ricatti, certo, in di statista. Siete andati fuori dal palazzo di giustizia. Oh, era la Biancofiore che dice che Berlusconi com'è che si è messo, Parenzo, a pelle d'orso per il paese, a disposizione del paese. Alza questo cazzo di voce stasera, sennò mi arrabbio, alza questa voce. Ma tu lo sai la battuta che le ha fatto Berlusconi il giorno del comizio lì a Bari, quando è sceso, io ero al Palace Hotel. No, lo sai tu, perché sei tu che sai queste cose così. Io alloggiavo nello stesso albergo di Berlusconi, quindi ero l'unico insieme a Dudu, eri insieme a Dudu? Insieme a Dudu, esatto, e la signora Pascale. A un certo punto si apre l'ascensore, esce Silvio, ci sono tre deputate di cui non farò i nomi, cioè Biancofiore, Ravetto, e l'altra deputata, la giovane, la simpatica, non mi ricordo mai come si chiama, molto carina, simpatica, la Giammanco, l'ex fidanzata di Minzolini, sì. Non volevo dirlo io, la signora, no, lo dico io, non esce, c'è Berlusconi, prima esce il cane con la signora Pascale, esce Berlusconi e guarda e fa: beh, allora siete qui tutte pronte per il bunga bunga. Le grandi esperienze di Parenzo. Lei l'ha vista la signora Pascale Toscani con Dudu, con il cane Dudu? No. Esteticamente com'è la signora Pascale, vestita sempre tutta firmata con questo cane Dudu? Com'è esteticamente? Appartiene alla nuova volgarità italiana. Addirittura? No, ma prima mi hai fatto una domanda interessante, se mi sono pentito. Ma senti, è tutta una vita allora che mi devo pentire, ho sempre votato sbagliato io. Lo so, quello è un problema. Allora, quando voti giusto ti devi pentire, quando voti sbagliato ti devi pentire. Qui è un continuo di la verità, confessa, pure Berlusconi hai votato tu, Oliviero. No, mi spiace. Pure Berlusconi hai votato. Come me hai votato. Una volta pure hai votato Berlusconi. No, non ho mai votato Berlusconni, proprio ti posso garantire. Io sì, mi devo vergognare? No, non devi vergognarti, forse hai pensato che era un momento di liberalesimo, non so. Ho avuto un appannamento, un momento di appannamento. Sì, un appannamento ti succede di non avere. Senti, dimmi qualcosa giusta. Sulla Pascale, l'erezione giusta. No, ma perché mi devo... Sì, la Pascale, perché ti devi rovinare la giornata, lo so, l'immagine della Pascale con Dudu in mano, tu che sei un fotografo, insomma un artista. Appunto, è la volgarità telegiotica. La volgarità? Volgarità telegiotica. Telegiotica, che vuol dire? Teleidiotica. Ah, teleidiotica. Sì. Ah, va bene, ma il cane in mano, ormai chi è che lo porta il cane in giro? Sto cane. Se è piccolo, sto povero Dudu, sto povero Dudu. Poverino. Signor Dudu. Signor, perché poverino? Perché va sempre vestita di bianco poi? La signora Pascale. La verginità. Dici? Sì. Perché dici? Il bianco è la verginità, come se si sposa. C'ha 28 anni, non penso che... No. Ma non si sa. Ma no, dai, su. Non è che Berlusconi sia come Sgarbi. Beh, no, dai, Berlusconi qualcosa farà, dai. Su. Comunque è bella, cioè, Oliviero, su questo non si può... Non la useresti per una tua campagna pubblicitaria? La no, ma neanche per idea, ma neanche per provincia. Cane di tu. Ma più in provincia, forse. Perché in provincia, dici? Sì, forse nella profonda provincia. Però il tempo passa, qui siamo qui a discutere il Dudu, ma... E la Biancofiore? La vedi in televisione? Robe qua, tutto è professione figa. Perché dici? Come professione, come professione figa. Ah, dici qual è il mestiere? Dici professione figa. Sì, professione figa. Poi, non è importante. Sì, ho capito, ma tu dici che tutte scelte da Berlusconi solo per quel motivo là. Non so, io perché lui le sceglie, però sono tutte così, molto simili, molto. Molto uguali, un esercito. Un esercito? Sì, un piccolo esercito, un piccolo comando di professione figa. Senti, ma il tuo nome. Sono quelli che si mimetizzano, no? Si mettono là. Sai quelli che fanno le finte guerre, no? Ma sono uguali, loro sono tutti un po' uguali. Senti Olivera, ma il tuo nome ideale per il Quirinale chi è? C'è uno che ti piacerebbe tantissimo? No, devo dire che Emma Bonino mi andrebbe bene perché ha dimostrato di essere una grande professionista, grande, e non è anche una banalità, ma in fondo è così. Vabbè, ma è difficile, eh? È difficile. È difficile, ma sarebbe un grande passo per noi, per l'Italia. Senti, ma hai visto Bossi e Maroni come se le danno giù? Che ridi, che ridi. Senti, ridi Luciani, no. Posso farti una domanda? Dimmi, caro. Posso? Sì. Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata su qualcos'altro che la politica. No. Parliamo, non è possibile. Non è possibile. Un'idea di estetica, di cosa, ma anche di figo, Di estetica con Bossi, scusa. Non può parlare di estetica con Bossi che è analfabeta. Ma come analfabeta? Ma oggi la politica è tutto. La politica oggi nella politica c'è tutto, ci sono i clown, c'è la figa, c'è Dudu, c'è tutto. No, non è vero, invece parliamo proprio. Scusa, Bossi e Maroni, a te la Lega che cosa ti ispira? Vedi Bossi e Maroni che si scannano, cosa ti ispira? Dammi un Te l'ho detto, la Lega per me è una diarrea, non è un partito. Ma no, la diarrea su sempre è un male di stomaco. Un male di stomaco che ti provoca la diarrea. Ma nel 2013, ragazzi, come dice. Ho capito, ma questi ragazzi, ma il governatore ancora... della Lombardia. Ma appunto, fra l'altro io sono lombardo e sono offeso. Un partito così in Lombardia che governa la Lombardia, sei offeso? Sono offeso. Ma insomma, non ho capito perché ti provoca veramente la diarrea la Lega. Cioè, se tu pensi alla Lega, vai a cagare in bagno. Ma fanno la loro atteggiamento, la loro, non so, mancanza di stile, non so come dire. Lombardi, c'era Carlo Cattaneo in Lombardia, ragazzi. Sapete chi era Carlo Cattaneo? Sì, c'era. Appunto, che non ha insegnato niente. C'era. Invece Borghezio, va bene. Borghezio, sì, abbiamo Borghezio. Invece Borghezio è al Parlamento Europeo, su, dai. Vabbè, Piemonte, vero. Senti D'Agostino sulle Quirinarie, senti il mitico Roberto D'Agostino sulle Quirinarie. D'Agostino, Quirinarie sono urinarie. Le urinarie, dice il signor D'Agostino. Perché non ti piace nemmeno D'Agostino adesso? No, D'Agostino non è che non mi piace. Che fa? Che fa, poverino? Prende le cantonate, mamma. Perché, dici? Ma non so, io, non so. Aspetta, senti. Grillo si è anche chiamato fuori dalle Quirinarie, ha detto io no. Ma io li chiamerei urinarie, no Quirinale, perché io non capisco, ha preso Grillo 8 milioni di voti, fa queste Quirinarie, buffonarie, come li chiama lui, con 48.000 iscritti. Ma che rappresenta allora? Ma che stiamo a fare? Gratta e vinci, che è il Grande Fratello? Che cos'è tutto questo? Beh, ha ragione, dai, su, ma di che stiamo parlando? Dai, le Quirinarie, ma si è assumesso la responsabilità in Parlamento, i 5 Stelle di votare un nome potabile. D'altra parte il nome di Rototà non è male, potrebbe anche creare problemi al Partito Democratico. Comunque non c'è mai stata una discussione così prima di chi potrebbe essere il Presidente della Repubblica. Grazie al Movimento 5 Stelle, grazie a questo, visto che mi devo pentire. Ma no, non è detto che ti devi pentire. Renzi e Bersani pure se le danno di santa ragione, Toscani, eh? Tu con chi stai? Ma io devo dire che non ho fatto le primarie e ormai mi hanno perso per strada, quel partito lì mi ha perso per strada. Ti ha perso, nemmeno Renzi potrebbe farti riavvicinare al Partito Democratico? No. Come, che ne pensi di Renzi? Ma Renzi è un bravo ragazzo. Un ragazzo, un po' di incenso, di sacrestia. Ah, sempre la Chiesa, dici, c'è sempre. Ma quello se ne fotte della Chiesa, caro Oliviero. Sì. Vabbè, giornale radio, tra poco, ciao Oliviero. Ciao. La Zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto. Ma vabbè, mi ammazza e va. Dormire la notte perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Non capisci un cazzo. Pure lo spray a di zanzara mi son messo che, ma lei gira sempre intorno a me e balli su. Una botta col faccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi. Chi è che non vuole che parli al telefono, David? Chi è che non vuole? e quindi c'è già passamene uno subito immediatamente passamene uno. Passamene uno, voglio sentire uno al telefono. Voglio sentire uno al telefono, sono un signora, falito per questa cosa. Posso disturbare la cioè, signor Cruciani in diretta? Perché voleva di parlare a bassa voce. Lo so, però il signor Cruciani in diretta alla radio voleva salutare, sapere perché era indispettita per questa cosa. Ma va bene, scusi. Me la vuoi passare o no? Passamene un altro arrabbiato, passamene un altro arrabbiato. Ha detto che sta leggendo. Ma chi se ne frega, dobbiamo fare la zanzara, diglielo, diglielo, vai là, canta. Ha detto Cruciani che bisogna fare la zanzara, mettili il telefono vicino. Ha detto che siccome sta leggendo, devo rompere il coglione. No, ma divalo, fammelo dire, inutile che ridi, parla a voce alta, ribellati, ma aspetta, ribellati. Sono al casello, devo fare ancora 100 chilometri, capito? Ma non me ne frega niente, io voglio che ti caccino a calci nel culo dal torpedone, capito o no? Lei è così cattivo, lei con me. Ho capito, dammi il telefono, passa il telefono a una incazzata un attimo, che ci parlo io. No, stanno dormendo adesso gli altri. Aspetta un attimo, aspetta che vedi. Titoli del TG3 intanto, titoli. No, che titoli? Allora passamelo. Aspetta. Passami un sindacalista. Voleva salutarla un secondo. Cruciani, Radio 24. Prego. Buonasera. Scusi, Parenzo, può parlare a voce alta? Ma scusi, non ho capito bene. Parenzo, il signor Parenzo, no? Quello che le ha passato il telefono, deve parlare a voce alta perché è in collegamento radiofonico, ha capito? Capito, sì. Ma si può fare questa cosa o no? Oppure è un disturbo? Arrechiamo disturbo. Va bene. Va bene? Non si arrabbi lei però se parla a voce alta, eh? E purtroppo deve parlare un po' a voce alta, altrimenti non possiamo fare la trasmissione, ha capito? Un casino. È un problema. Lei che va a fare a Roma da Siena, scusi? Non ho capito. Lei che va a fare a Roma da Siena? Scusa? Ma lei da Siena a Roma a quest'ora di pomeriggio che va a fare? Vabbè. Titolo del TG3, dai, titolo del TG3. Ma chi mi ha passato? Titolo del TG3, uno manco parla. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Le bombe alla maratona di Boston, 3 morti e 170 feriti, riportano gli Stati Uniti nell'incubo del terrore, falsi allarmi in 3 aeroporti. È stato un atto spregevole, dice il presidente degli Stati Uniti. Non abbiamo alcuna traccia dei responsabili, ma questo è terrorismo. 9 giorni dopo la terra torna a tremare in Iran, decine di morti, villaggi distrutti, la scossa avvertita anche in India e Pakistan. I 5 Stelle scelgono Gabanelli per il Colle, Grillo al PD, votatela, poi vediamo, se lei non accetta, l'altro nome è quello di Stefano Rodotà. Il PD a Grillo serve una soluzione condivisa, si lavora per un candidato ad eleggere la prima votazione, ancora da fissare l'incontro con Berlusconi. Cassa integrazione agli sgoccio, i sindacati in piazza a Montecitorio per chiedere più fondi al governo, servono quasi 3 miliardi, Fornero non possiamo fare decreti. La finanza e i pubblici ministeri senesi a Banca Italia per ottenere il sequestro di quasi 2 miliardi di euro alla banca Nomura, si ipotizza il reato di usura. Qualche ricordino su Giuliano Amato, che è un nome che sembra stia un po' montando. Sì, lo so chi mai è passato prima, lasciamo perdere adesso. Fermo lì. No, è un immigrato della Romania che dovrebbe raccontare la sua storia. Vabbè, no, adesso no. Adesso c'è Giuliano Amato, che è un nome ovviamente in pole position, no? E vogliamo ricordare Parenzo che rincorre Giuliano Amato con il microfono. Stai zitto un attimo. C'è un tempo per tutto. Adesso non è il tempo di scherzare. Anzi, è anche tempo di scherzare, però ricordiamo Parenzo che insegue Giuliano Amato per la questione della pensione. Professore, possiamo farle un paio di battute? No. La questione delle pensioni? No. Professore? Non faccio battute di nessun genere. Sulle pensioni, no, sulla riforma? No. Ci avete politici in servizio. No, perché volevamo capire per il futuro proprio del paese sulla questione delle pensioni. No, non faccio. Passioni e vanità. Poi disse che il suo vitalizio lo manda in beneficenza. In beneficenza. 31.000 euro. 31.000 euro lordi. Ma abbiamo in collegamento uno dei più grillini tra i senatori, i deputati del Partito Democratico, Corradino Mineo. Buonasera, ciao Corradino. Ciao, grillino sarai tu, eh? Ma come? Sei uno dei più grillini, dai, diciamo la verità. Questa è una tua valutazione che non condivido affatto. Vabbè, uno di quelli più favorevoli all'accordo con Grillo. No, io sono uno dei più favorevoli alla scelta di una persona che abbia delle caratteristiche, cioè... Sai, una volta tanto mi trovo d'accordo con Ezio Mauro. Perché? Che sia una persona che rispetti la Costituzione, che sia una persona che la conosca, che sia una persona che non venga dalla nomenclatura di partito, ha scritto Ezio Mauro, che sia una persona di garanzia per tutte le aree, non per una in particolare. Allora, scusa, ma se mi dici Rodotà, ti dico sì. Sì. Se mi dici che sono grillino, proprio non. Ma non grillino, quello. Ho preso un'altra cultura. No, però scusami, grillino, Corradino, lo so che non c'entri niente dal punto di vista. Ma è un grande attore, lo rispetto, lo apprezzo, ma non c'entro nulla. D'accordo, però tu sei uno di quelli che vorresti trovare una, come dire, una un'intesa con no, io penso che in realtà sarebbe uno splendido candidato per il PD, cioè sono convinto. Ho capito, ma lo propone Grillo, però. Grillo fa politica, siccome era finito nell'angolo per colpa sua. Sì. Perché aveva congelato da politicante questa speranza, diciamo, anche queste emozioni, questa volontà di fare degli eletti a 5 Stelle, ora cerca di smarcarsi, fa bene a cercare di smarcarsi, ha proposto delle persone per bene. Ma tu Amato lo voteresti mai? Ma sai, non è che Amato non è una persona... Cioè se il tuo partito lo propone, lo voti? No, è un servitore dello Stato, notevole sicuramente. Sì. Voglio dire, Amato e Cabanelli? Mi ha fatto sentire la storia della pensione. Sì. Ma parlate anche dello stipendio che si è fissato Scaroni, 6 milioni di euro. Mica Scaroni si propone al Quirinale, però. Oltretutto fa una querela temeraria contro la Cabanelli. Ma Scaroni non è candidato al Quirinale. Ho capito, però siccome questa storia della casta, quando guarda solo i politici, mi pare assolutamente sbagliato. Senti, tra Gabanelli e Amato, chi voteresti tu? Tra Gabanelli e Amato. Ma preferirei Rodotà. Vabbè, tra Rodotà e Amato, Rodotà. Rodotà, sì. E tra Gabanelli e Amato? Ma non credo, guarda, Milena le voglio bene, è bravissima. Ma è adatta a fare il Presidente della Repubblica? Ma non credo proprio che lei voglia fare il Presidente, che pensi di poterlo fare. Guarda, io sono notoriamente... Ma sarebbe adatta? Sarebbe adatta? Non particolarmente modesto. E sono meno bravo di Milena, ma come giornalista probabilmente, ma... insomma, ho più la tendenza, la passione da sempre per la politica, ma non mi sentirei in grado di fare il Presidente della Repubblica. Se Grillo punta a un Gabanelli fermo, cioè per le prime 3 votazioni, sta tenendo ancora in frigorifero i suoi voti. Ma secondo me alla fine spunta Rodotà. Dunque, dai un consiglio alla Gabanelli, digli di rinunciare subito, così spunta Rodotà. Ma non ho bisogno di dare consigli alla Gabanelli, le voglio bene. L'altra volta, quando volevano sbatterla fuori, le ho telefonato e le ho chiesto che me la dessero come condirettore, quello che era a Radio 24. Penso che sia una risorsa della RAI, poi decide lei. Meglio anche Presidente della RAI, meglio Presidente della RAI che Presidente, meglio Presidente della RAI la Gabanelli che Presidente della Repubblica. Un Presidente Gabanelli che svolta sarebbe in questo paese per il servizio pubblico, sarei felice. Gino Strada pure non è adatto. A cena, guarda, vi invito tutti a cena. Bene, ma Strada non è adatto nemmeno lui, no? Ma guarda, Strada lo considero un amico, una persona straordinaria. Vabbè, però dai, su. Mai Presidente della Repubblica, ma perché? No, ma io sono d'accordo, questo stranamente sono d'accordo con te, né Gabanelli né Strada. Rodotà, sai, ha un piccolo problema, cioè che sarebbe, cioè hai visto, Ferrara dice che si butta dalla Torre Velasca con ma lo capisco bene che Ferrara si butta dalla Torre. Dice appunto facciamolo Rodotà. Lo capisco bene, perché per esempio sai quali sono le cose semplici. Rodotà è una persona che tra il consenso, la forza del consenso e la forza della legge, pensa, come noi illuministi, che valga di più la forza della legge. Cioè che Berlusconi è ineleggibile, però. Dunque... Non so se è ineleggibile, sicuramente non si può ottenere o i voti e quindi me ne frego delle leggi. Questo non è lo stato di diritto. Scusa un attimo, quanto accumulo di pensioni, non è che Rodotà faccia tanto di meno di Amato. Beh, pure Rodotà pure cumula, cumula pure. Si difende. Cumula pure lui. Comunque, al di là di questo, la cosa che voglio capire è Rodotà. Il mio reddito è pubblicato online. Vabbè, tu non c'entri niente. Tu hai fatto per adesso solo una pensione, magari ne maturerai un'altra quando alla fine del percorso da parlamentare. Per adesso una ce l'hai. Non credo. Dai, forse. Io voglio capire tra. Se il tuo partito candida Amato, il suo passato craxiano ti dà fastidio, sì o no? Ma no, assolutamente no, non è quello che... Cioè lo voti, sei il candidato del tuo partito, ma lo voti. No, guarda, il problema di Amato è quello che è un leader addirittura della Prima Repubblica. Allora è difficile sostenere che, pur essendo sicuramente un uomo delle istituzioni, rappresenti quel necessario sguardo fresco al mondo che sta cambiando e che in modo dolente e appassionato dice al Parlamento e ai partiti: non continuate come negli anni. Perdete voti, con quello perdete voti, dai su, perdete voti. Più che perdiamo voti, cioè, voglio dire, la gente si aspetta un altro profilo, poi magari si rivelerebbe un ottimo presidente. Sai che cosa mi ha detto qualcuno, qualche vocina? Che Bersani ha detto: se andiamo con Amato ci fa perdere, poi andiamo a votare ci fa perdere 2-3 punti. Vabbè, Cassese ti piacerebbe invece, si fa nome anche di Sabino Cassese. Ottimo, però non vedo, visto che qualcuno già propone Rodotà, non vedo perché cambiare cavallo. Ecco, senti una cosa, su Rodotà Onida se cambia telefonino potrebbe farlo, però Onida se cambia telefonino sì. Onida se cambia telefonino può darsi. Vabbè. Ora non facciamo giochi. Un'ultima cosa, Corradino, un'ultima cosa. Rodotà è il modo migliore per far fuori Berlusconi? Dimmi la verità, però, sii sincero su questo. Assolutamente no. Ma come Rodotà, no? Come ma no? Proprio no. Guarda, Berlusconi avrebbe rispetto e attenzione da Stefano Rodotà. Naturalmente su quelle cose lì non può dirgli sì. Ma scusa, ma se Ferrara si vuole buttare dalla Torre Velasco, scusi, ci facciamo l'apposta, no? Facciamo l'apposta. Tu no, allora non lo conosci. Ma come no? Giuliano è sempre solo così. Eccessivo da sempre. Ma noi lo era anche quando stava nel... Io me lo ricordo nel PC. Scusa, Rodotà darebbe l'incarico di nuovo a Bersani? Non lo so, non credo, probabilmente si avrebbe una nuova stagione, ma voglio dirti, Giuliano, me lo ricordo nel PC a Torino, ed era eccessivo come ora che è berlusconiano. Una volta l'ho visto salire sul tavolo di Via del Corso, quando era graziano, con la sua mole, è sempre stato eccessivo, ma ti assicuro che Rodotà sarebbe un presidente di garanzia per tutti. Grazie Corradino, grazie. Ciao. pubblicità borsa. Ciao. La Zanzara. Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda. Io ascolto la Zanzara perché ogni tanto voglio averlo duro al Castello di Genova. Duro. E siamo qui 800 24 00 24. Qualcuno ricorda che Grillo nel 2010, magari non riferendosi direttamente a Rodotà, comunque si arrabbiava per la pensione, forse lo chiamò anche il maledetto a 8.000 euro di pensione. Rodotà, che in sostanza, perché la Gabanelli secondo me rinuncerà da qui a domani, in sostanza è il candidato del 5 Stelle, diciamola tutta, il vero candidato, quello che metterà nei guai il Partito Democratico, che dovrà decidere se appoggiare Rodotà oppure Cassese, o magari puntare ancora su Giuliano Amato per un accordo con il PDL, forse anche Cassese potrebbe essere oggetto di un accordo con il PDL. Il vero candidato dei 5 Stelle è Stefano Rodotà. No, ma è chiara una cosa, è chiaro che Rodotà dà molto fastidio a Berlusconi perché c'hanno paura, perché Berlusconi è berlusconiano, insomma. Però al PD piacerebbe molto Rodotà, una parte specie del PD, Rodotà piace molto, la parte più nuova. Quindi è questa la grande lacerazione. Grillo in questo è un genio del male maledetto, cioè ha mandato avanti questa candidatura di bandiera della Capanella. Ma ve la immaginate voi la Capanella al Quirinale? Che fa? Comincia a fare tutte le inchieste sui granatieri perché sono così alti, porca puttana. Va messo uno così agli incontri con la Merkel e deve mettere la telecamera ovunque, deve indagarlo, deve fare presidente della Repubblica. Non serve a un cazzo. In Germania lo fanno, ovunque. Ma dove lo fanno in Germania? Lo fanno, possiamo chiedere alla Merkel di farsi presidente della Repubblica. A noi non serve a un cazzo, lo fanno dappertutto. Si interscambiano i presidenti della Repubblica, rimane a Berlino. Non serve, non si sposta, rappresenta anche l'Italia. Lo fanno ovunque, ovunque. La Gabanelli, non me l'aspettavo, è fantastica. Adesso volevo chiamare Di Pietro, vedere cosa ne pensa. È fantastico. Il messaggio è straordinario. Straordinario. Non credo che sarà possibile, la voteremo solo noi, pazienza. Ecco. eccoci qui, maledetti, non vi pensionerò. 6 luglio 2010, 6 luglio 2010, in cui cita Luciano Benetton, la Iervolino, la Maiolo, Mancino, Pino Rauti, Raiklin, Stefano Rodotà, 8.455 euro di pensione. Così nel 2010 Grillo dà del maledetto a Rodotà, che adesso invece diventa il vero candidato delle 5 Stelle. Luca d'Aosta, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Vada. Niente, volevo fare solo una considerazione sulla candidatura della Gabanelli. Cioè, sì, l'importante è capire il segnale. Cioè, io sono un attivista e candidato del Movimento 5 Stelle. È chiaro che la Gabanelli è una che ha fatto indagini, inchieste e ha scoperchiato davanti agli occhi degli italiani quello che è. E allora? Cioè, e allora, posto che sia così, e ovviamente può anche essere così, fa delle inchieste questo, meravigliose, scopre delle porcherie inaudite, mette in crisi le aziende che giustamente fanno delle zozzerie, e allora? E come lo cambiamo questo paese? Noi ma cosa che vuol dire? Ma che deve... ma cosa diciamo il Presidente della Repubblica diciamo non deve cambiare il paese, ma lei non capisce nulla. Ma lei non capisce nulla. Allora continuasse a fare quel mestiere, Luca. Il Presidente della Repubblica fa un altro mestiere, non deve fare le inchieste. Il Presidente della Repubblica non deve rimettere a posto i conti del paese, deve fare il Presidente della Repubblica. Non c'entra un cazzo, non c'entra nulla. Va bene. Dai, ma diamo merito a queste persone, ma diamo merito anche noi qui nella nostra regione come Movimento 5 Stelle abbiamo fatto dei dossier per fare a capire alle persone come alcune cose ma va benissimo, no, è questo, ma va benissimo, la Gabanelli è straordinaria, informa la gente, ma io sono d'accordo con... ma dai su, ma smettiamola con questa cosa di scegliere i candidati e invece sono ricettacolo di figli, di nipoti stupidi, del figlio cretino, delle amanti e delle puttane dei vari personaggi. Vogliamo dirlo questo? Sì, ma questo, questo che cosa vuol dire con la Gabanelli Presidente della Repubblica? Scusi? Che vuol cosa dire, vuol dire? Dargli merito, vuol dire ma che vuol dire? Dargli merito significa farla lavorare sempre più liberamente. Ma è una di guerra, eh? Eh? Guardi, la Gabanelli faceva l'inviata di guerra. Ma chi se ne frega? Andava, cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Chi se ne frega? Ma io me ne sbatto le palle di questa roba qua, l'ha capito o no? Certo, la storia delle persone non ha nessun valore. No, ma non è che non ha nessun valore, ha valore, ma non c'entra niente, deve fare il Presidente della Repubblica. Deve fare il Presidente della Repubblica. Perché lei riesce a non essere schierato con nessuno, tanto di cappello, no? Quanto Parenzo a volte veramente... verrebbe voglia mangiare cozze avariate e poi sedersi sulla sua faccia, mentre al limite lei io non mangio cozze. Ragazzo, scusa, Luca, scusi, caro amico, perché allora non cosa candidare a Riccardo Iacona oppure il signor Ruotolo oppure non lo so, Santoro, ma di cosa stiamo parlando? Il Presidente della Repubblica è uno che deve essere una persona che conosce un minimo quel mestiere. Dai su, ragazzi, io non voglio fare quello. A me questa cosa che il Presidente della Repubblica deve essere uno che è fuori dalla politica mi fa impazzire. Che vuol dire? Perché deve essere uno? Ragionare nella stessa logica. Non vogliamo dare un'interruzione al sistema. Il movimento guardi che Rodotà da questo punto di vista va benissimo. Ma dei giovani, dei ragazzi che non la pensano in un certo modo, che non hanno l'ottica della tangente come strumento, Luca, ma hanno l'ottica del cittadino. Vabbè. È questo che non si vuole capire. Luca, prego, caro Luca, prego, allora, prego. Guardi, Rodotà da questo punto di vista invece, da questo punto di vista è perfetto, perché comunque è un giurista, conosce un minimo la materia, è uno che è del mestiere, diciamo, è dell'ambiente. Poi devo dire, lasciamo perdere i giudizi personali su quello che pensano da... non c'è paragone. Ma che vuol dire? Ma che c'entra la Gabanelli? Che c'entra Gino Strada? Che c'entra il signor Gino Strada? Dai su, Luca, grazie però, grazie. Dobbiamo dare la parola ad altre persone. Vito da Catania. Buonasera, zio Cruciani e zio Parenzo. Sì, vada. Ascolti una cosa, volevo dire due consigli, diciamo, per il Quirinale. Uno me l'ha venuto in mente, diciamo, Oscar Giannino, una volta che l'hanno buttato fuori da quelle, diciamo, quelle piccolezze che, diciamo, che aveva fatto, avevo pensato che sarebbe un nome carino quanto riguardava il Quirinale. La seconda cosa invece è, se non si riesce a scegliere una persona per il Quirinale, ma perché non si elimina completamente sto Quirinale? Ah, tu lei dice eliminare il Quirinale, però adesso Vito, per metterci che cosa? Eliminare il Quirinale, scusa. No, eliminiamo il Quirinale, diciamo. Ma non ci sono le coordinate del Quirinale, Grillo, le coordinate del Quirinale non ci sono? Le coordinate del Quirinale basta trovarle sulla rete, sono tutte lì 45 gradi Y, 74, in Germania lo fanno, le mettono, le coordinate del Bundestag, così chiunque di Al-Qaeda può bombardare tutto, lo fanno ovunque, ma cosa? In tutti i paesi civili è così, si può bombardare il proprio Parlamento, ovunque, siete voi che siete dei coglioni retrogradi morti. Va bene, ovunque. Tina dalla provincia di Milano, grazie Grillo, Tina, provincia di Milano. Tina? Pronto? Buonasera, dica. Buonasera, dottor Cruciani. Allora? Niente, io vorrei ritornare un attimo sull'argomento di ieri sera, cioè di Matteo Renzi sulla Finocchiaro. Ecco, lei continuava a dire che vabbè, la scorta è giusto, per carità. No, io non ho detto la scorta è giusta, non ho detto affatto che la scorta è giusta. No, non è giusto, no, ha ragione. Però diceva in fin dei conti ce l'hanno tutti. No, okay, non ho detto questo, ho detto criticare, dire che la Finocchiaro non deve andare al Quirinale perché è andata all'IKEA. Sì. Cioè, è una stronzata, uno può dire mille altre cose, ma in fin dei conti sta Finocchiaro, ma che ha fatto dal punto di vista politico? No. Mi dicono che ha presentato un solo disegno di legge presentato da lei, poi alla fine è diventato legge, quello sulle visite in carcere dei figli delle donne detenute. Ma insomma, al di là di questo, ma che ha fatto? Questo era un motivo, diciamo. No, che ha fatto? La scorta, ok, va bene, prendiamola per buona, però la scorta doveva fare la scorta e quindi non doveva essere usata come colpa. È quello, d'accordo, infatti ha fatto una figuraccia, non c'è dubbio. Umiliante per quei signori che stavano lì col carrello in mano. Secondo, volevo dare anch'io il mio nome per il Quirinale. Di anche lei, su, tanto ormai... Allora, Sgarbi in televisione aveva proposto il maestro Muti. Che ha rifiutato, allora... Io invece proporrei lui, perché comunque potrebbe valorizzare il nostro petrolio, cioè tutto, il patrimonio artistico. È tutto finito, dai, su, Sgarbi al Quirinale, ma di che parliamo? Dai, Tina, su, aspettiamo. E intanto è di un'intelligenza unica. Grazie. Non me moleste moschito, non me moleste moschito. Allora devi sapere, Parenzo, che ci sono delle persone che voteranno per il Quirinale, ma che in realtà hanno un doppio incarico ancora, cioè devono decidere, sono incompatibili, si dice, e devono decidere se rimanere alla regione, per esempio, oppure in Parlamento. Qualcuno dice fate con calma, tanto non c'è nessuna fretta. Qualcuno dice che ci potrebbero essere dei problemi addirittura dopo, se loro votassero per il Presidente della Repubblica. Qualcuno potrebbe dire: beh, voi però non potevate votare. Insomma, un casino pazzesco. Uno di questi oggi è con noi, ha un cognome famosissimo per la politica italiana, Giuseppe De Mita. Buonasera. Buonasera. Come Ma sta? Io non sono uno di questi. Come non è uno non di questi? C'entra con De Mita Ciriaco. Come no? C'entra. È nipote, sì. Come no? Sì. È nipote. No, come non lei non c'entra con uno di questi? Scusi, signor De Mita. Io ho comunicato al Presidente della Regione le mie dimissioni. Quando? Quindi oggi, la settimana scorsa. Allora, ho capito, però le ancora non sono state ratificate. Sì, ma credo che la procedura, sono neofita, ma da quello che ho capito, la procedura prevede che sia la giunta del regolamento della Camera a chiedermi formalmente l'opzione, ma io ho già optato. Allora, insomma, dirimiamo questa cosa, cioè, risolviamo questa cosa. Lei è consigliere regionale, giusto? No, assessore. Assessore al turismo e beni culturali. Sì, poi anche vicepresidente della giunta regionale, ma questo non c'entra niente. Vabbè. Dopodiché è stato eletto in Parlamento da assessore al turismo. Ora lei che cosa deve fare? Dovrebbe optare tra assessore, giusto? Esatto, questo dovrebbe chiedermelo la giunta per il regolamento della Camera. Io nel frattempo ho comunicato al Presidente della Giunta regionale che mi dimetto da assessore optando per la Camera. Dunque lei voterà per il Presidente della Repubblica, non c'è dubbio. Ma lei è ancora assessore formalmente? Sì, perché il problema non sono le mie dimissioni ma la mia sostituzione. Cioè? Cioè ancora perché? Il Presidente Caldoro non si sbriga, questo è il problema? No, non è così, insieme a più o meno è così. Insieme a me c'è un altro assessore che è stato eletto. Comunque la procedura è questa, io capisco le questioni che vengono poste, ma la procedura è questa. Ho capito, in questo momento lei è ancora formalmente assessore al turismo, lei si è pure dimesso, però è formalmente assessore, cioè ha questo incarico che è incompatibile, o sbaglio? Formalmente diventa incompatibile dopo 60 giorni dall'insediamento delle commissioni parlamentari, questa è la legge. Sì, d'accordo. Non l'ho fatta io, questa è la legge. Nel frattempo, siccome io ritengo, anche per le mie limitate capacità, che non si possano fare due cose insieme, ho scritto al Presidente dicendo io mi dimetto. Questo meno male. Ma lei voleva fare il parlamentare, no? Non è che voleva restare a fare l'assessore, oppure ci ha pensato un po'? No, essendomi candidato al Parlamento mi sembrava più corretto. Scusi, cioè, dato che lei è... tu sai di chi è parente, Parenzo, scusa? Non è possibile che sia parente. È parente, come no? Certo che è parente. Sai che cosa ha scritto? Ma non è che se uno si chiama De Mita per forza è parente del grande Ciriaco, cioè cosa c'entra? Dice, fa politica, fa anche politica. Ma figurati, sarà un uomo caso di omonimia, dai, basta. È nipote. Tra l'altro in qualche momento è entrato anche in contrasto col signor De Mita, con ma De Mita senior. Dire, perché lo devi diffamare? Basta, su. Ma no, è nipote. Parliamo Ciriaco De Mita, non diffamiamo mai così. Te lo può confermare anche lui, è nipote. Ma non è possibile, dai, ma figurati se in Italia i nipoti di cosa fanpoli, dai, basta, smettila. Allora, no, infatti in Italia perché non succede. Perché lo devi diffamare? Solo in quanto nipote di De Mita, non è semplice. Confessi. Sì, assolutamente. Confessi. Ma no, io invece a me è molto simpatico, ma sicuramente non è nipote di De Mita, smettila con questa cosa, perché guarda che è altamente diffamatorio quello che dici. Allora, innanzitutto, forse è altamente diffamatorio quello che ha scritto un giornale di Verona. La è come cronaca... pensare che il figlio di Pietro, quello che era lì è il figlio di Pietro veramente, ma è un caso di omonimia, dai, smettila, basta. Allora, il giornale di Verona, o il figlio di Lombardo, ad esempio, il figlio di Lombardo. No, ma quello sicuramente non è figlio, no? Ma è sicuro, compagnia. Ma figurati. Totò Lombardo non è. Però devo dire una cosa: Giuseppe De Mita fa politica da un sacco di tempo, non è che fa politica da ieri. Però sempre parente di De Mita è. Questo non significa. Lei si vergogna di essere parente di Ciriaco, scusi, signor Giuseppe. Assolutamente no. Diciamo, al Parlamento europeo suo zio dovrebbe essere un po' più presente. Insomma, non mi pare molto presente lì in quel di Strasburgo. Però, Non è così. Come non è così? È così. Sempre a Strasburgo. Ma quando mai? Almeno per quello che so. Ah, ecco, per quello che sa lei. Vado a leggere. Magari ci racconterà delle bugie. Ecco, esatto, appunto. Da dove va? Scusi, signor De Mita, lei dice di essersi dimesso, dunque in realtà voterà per il Presidente della Repubblica da assessore dimissionando, si dice, al turismo e ai beni culturali della Regione. Vabbè, comunque. Dunque lei non è più nella condizione di incompatibilità. Beh sì, formalmente sì in realtà, perché scusi Caldoro, vuole scegliere un nuovo assessore? No, così? Formalmente no, perché le ripeto, è da l'incompatibilità scatta dopo 60 giorni dall'insediamento delle commissioni. Ho capito, però sarà una norma irragionevole, incomprensibile. Molto irragionevole, sì, molto irragionevole. Insomma, è un po' troppo 60 giorni. No, ma questo è legato anche a questa singolare circostanza che il governo non è stato ancora costituito, coincide con la scadenza del Presidente della Repubblica. Certo. Quando è stata scritta questa norma probabilmente non si pensava è sempre una coincidenza, che si potesse realizzare un fatto così curioso. La cronaca di Verona ha scritto: il terrone non molla le poltrone. Lei sarebbe il terrone, sì. Ha capito? Si sente offeso, signor De Mita? Ma lo trovo una cosa un po' sgarbata, poco intelligente. La cronaca di Verona diretta dall'ex senatore leghista Achille Ottaviani. Sì. Mo sai che le faccio? Mi lascia molto indifferente la cosa. L'esercizio della poca intelligenza non mi appassiona. Scusi, perché non si è dimesso prima da assessore perché aspettava di essere eletto? No, e soprattutto perché si è candidato nel Veneto, dato che lei è campano? Vabbè, no, io non mi sono candidato nel Veneto, io mi sono candidato in Campania. Ah, in Campania è uscito fuori il suo nome? Sì. Perché non si è dimesso prima? Voleva sapere se veniva eletto o no? Mi dica la verità. No, perché io ero primo dei non eletti, il ministro Catania è risultato eletto in Campania e sì, in Veneto, d'accordo. E doveva esercitare l'opzione. E ha optato per il Veneto. La seconda metà di marzo. Sì, d'accordo, però lei non si è dimesso prima da assessore perché aspettava di capire se era eletto o no, diciamola tutta. Non c'è niente di male, però è così. No, assolutamente. Allora, il terrone, si sente un po' terrone lei, signor De Mita? Mi sento molto meridionale, molto irpino. Ma terrone non è una parola d'acquarella? In realtà la cosa imprecisa, non dico diffamatoria, ma imprecisa, è che mi dà del vesuviano. Ah, del vesuviano, sì. Vesuviano. Mentre io sono irpino. Quindi, vabbè, ma là c'è una generalizzazione, come sa lei. Una generalizzazione. Ed è un errore. Adesso lo sai che faccio? La faccio parlare col signor Ottaviani. Lo mandi pure a quel paese. Lo mandi a quel paese. Dice, perché mi dà del terrone? Signor Ottaviani, sentiamo se lo troviamo, il signor Ottaviani. Abbiamo fatto uno scherzetto dei nostri, signor Ottaviani. Pronto? Sì, pronto. Caro Ottaviani, sono Cruciani, la Zanzara, come sta? Bene, grazie. Allora? Allora cosa? Si è pentito di aver dato del terrone a De Mita? Guardi, questa zona è un po' ridicola, perché nel Veneto da decenni, i meridionali li chiamiamo terroni. Vabbè, ho capito, però lei non è che l'ha scritto in maniera benevola quel terrone, su, diciamo la verità, ha detto il terrone non molla le poltrone. No, questo lo dice lei, questo ve lo vuol far dire lei. Terrone è uno, del meridione. Ah, lei l'ha scritto perché voleva fare un complimento, su, dai, Ottaviani. No, dai, non dica così, sa benissimo che non era offensivo. Era... Ma come non era offensivo? Poi faceva leva con poltrone, dai. Su, faccia il bravo, non dica cose che non sono vere. Scusi, Ottaviani, abbia pazienza. Se uno scrive il terrone non molla le poltrone quando ci sono un sacco di leghisti, tra l'altro al nord nella stessa situazione, se non peggio, del signor De Mita, scusi, abbia pazienza. È chiaro che, lei si rivolge solamente a De Mita. Questo è il suo pensiero, Questo è il mio pensiero. Allora chieda scusa al signor De Mita. Vuole chiedere scusa al signor De Mita? Non chiedo scusa, signor De Mita, perché non ritengo di averlo offeso, ci mancherebbe anche quello. Signor De Mita, è un bravissimo amministratore, è un bravissimo politico, non lo conosco, non l'ho offeso, come se fosse stato tedesco potevo scrivere Crucco e non mi sembra di offendere un tedesco. De Mita? Sì. Dica qualcosa. Ma no, non ho voglia di dica qualcosa, di dica qualcosa, no. Dice che è un complimento. Poteva utilizzare una modalità diversa, ma ognuno sceglie il modo con il ma quale poi lei, comunicare. In realtà, caro Ottaviani, voleva semplicemente favorire il Veneto che sarebbe subentrato al posto di De Mita. Ma questa circostanza non è nemmeno vera, perché anche se io avessi optato per la regione Campania non sarebbe entrato Valle Gamberi. Quindi... Va bene, pubblicità, grazie, pubblicità. La Zanzara. Siamo come lei a cantare, siamo ancora qui, solo per disturbare. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Siamo come lei, siamo come lei a cantare, siamo ancora qui, solo per disturbare. Hai visto che mi ricordo del tuo nome una mente bene, che me la sono sentito il mio mezzo culetto tutto gonfio il giorno dopo. Eccoci, Andrea dalla provincia di Roma, buonasera. Andrea. Buonasera. E niente, io riguardo al Toto Quirinale volevo dire anch'io la mia cazzata, così in mezzo a tante. Ecco, bravo, sì. Un nome che stranamente, ma forse perché io non ci capisco niente, non ho ancora sentito fare, è Montezemolo. E mi domando per quale motivo non sia stato fatto da nessuno. Ma scusi, ma lei sta proponendo Montezemolo sul serio oppure no? Sì, ma per quale motivo al mondo Montezemolo dovrebbe fare il Presidente della Repubblica? Me lo spieghi? Per rappresentare l'eccellenza italiana in giro per il mondo. E l'esperienza in Confindustria forse lo rende. Ma anche uno deve fare il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, non andare a rappresentare l'Italia in giro per il mondo per le imprese, eccetera. Quello già lo fa Montezemolo di suo, punto. Vabbè, comunque, gli piacerebbe Montezemolo. A lei piacerebbe Montezemolo, vabbè. Era la mia cazzata. Ma no, ma non è una cazzata, è una cosa che non ha senso. Molto. È una cosa che non ha senso, cioè non ha senso. Elisa da Roma, buonasera. Elisa, pronto? Bada. Buonasera. Sì. Allora, malgrado tutta la gente che conosco io, e ieri sera anche un sondaggio in televisione, non si parla assolutamente di Emma Bonino, che mi sembra quella più, in tutti i sondaggi risulta per prima. Come mai non si parla più della Bonino? Ma che ne so perché non si parla più della Bonino? Cioè, perché evidentemente... Anche ieri sera su Piazza Pulita lei risultava la prima nei sondaggi. Sì, ma non è che dai sondaggi in televisione esce fuori il Presidente della Repubblica. È una cosa ridicola, patetica. Cioè, non è che uno dice facciamo un sondaggio ed esce fuori la Bonino. Ma di che parliamo? Questo Pannella pensa che la Bonino è popolare tra gli italiani e invece i politici le impediscono di diventare Presidente della Repubblica. Ma di cosa stiamo parlando? Ma c'è tutti i numeri, c'è tutti i numeri. Ma questa è una sua opinione che ovviamente è legittima e va benissimo. Ma Emma Bonino, ma possibile? Ma guardi, ma c'è una differenza enorme ma si può discutere fino all'infinito per lei è meglio questo. Ma che ha fatto Rodotà? Scusi, con la stessa domanda che lei fa agli altri, che ha fatto la Finocchiaro, ma che ha fatto Rodotà? Vabbè, Rodotà è stato presidente della Privacy, giurista, eccetera, eccetera. Ma lascia Privacy, senta, guardi Berlusconi, la Privacy, ma quale Privacy? Ma che c'è in Italia esiste la Privacy soltanto quando si va all'altra. Guardi, cara Elisa, a lei piace più la Bonino di Rodotà, questo lo posso capire, è assolutamente legittimo, però non non mi citi i sondaggi che divento pazzo sulla Bonino, divento pazzo per questa cosa qua, i sondaggi, ma divento pazzo. Ma io ci spero ancora, però, guardi Cruciani, io ci spero ancora. Lei ci spera, ma va benissimo, ma non mi citi i sondaggi, tipo Pannella, tutti i sondaggi danno la Bonino, invece questo la casta essere italiana, ma può essere secondo chi, secondo quale considerazione? I no, sondaggi no, è vero che in generale... Sì, io non capirò un cazzo, però... Non capirò un cazzo, Marco, però non è che decidono i sondaggi il Presidente della Repubblica, abbi pazienza, scusa. Il Presidente della Repubblica dovrebbe essere votato dagli italiani. Allora, quello è un altro discorso. E non dai vari De Mita che ha parlato prima, che ha succhiato veramente il latte dello zio, quindi un latte speciale. Sì, sì, è veramente una vergogna che De Mita sia ancora a Strasburgo. Perché non fanno un'inchiesta anche su De Mita? Inchiesta su che cosa, scusi, così a buffo? Di quanto avrà mangiato. Di quanto avrà mangiato, ma già ne hanno fatto. Tanto avrà mangiato, cominciando dalle case a Roma e chi ne ha più ne metta. Nico da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, mi perdoni, le volevo fare una domanda. Cioè, quando lei dice Rodotà è legittimato a essere indicato come possibile presidente, presidente della privacy, non l'ha appena detto. Io non ho detto per questo, ho detto che dice, eccetera, ha un profilo più solido rispetto ad altri, punto, rispetto ad altri candidati dei 5 Stelle, che sono gente che di professione fa uno è il medico di emergency, l'altro la giornalista televisiva, dai su. Certo, ma ascolti Cruciani, secondo me quando si è a certi livelli, a livelli dirigenziali, si fa sempre politica, cioè chi ha i grossi comunicatori, anche lei è un grande comunicatore, lei comunica molto meglio probabilmente dell'85% dei parlamentari che siedono in questo momento. Ma che vuol dire? Che vuol dire? No? Come che vuol dire? E allora una cosa è imparare i protocolli, io penso, mettiamo che lei... che lei diventi presidente della Repubblica, film Cruciani diventa, lei nel giro di 6 mesi ha imparato tutti i protocolli, perché non è certo un imbecille, lei nel giro di 6 mesi saprà esattamente come muoversi. Poi il presidente della Repubblica ha comunque con sé uno staff che gli indica, che gli fa, cioè una cosa sono i protocolli e una cosa è il mondo da dove vieni. Cioè io penso che il presidente della Repubblica non deve venire per forza dal mondo della politica. Ma lei ha votato Grillo? No, io ho votato a Sell. Ma ha votato anche per le Quirinarie, no? Ho votato per le Quirinarie perché poi mi sono iscritto e ho fatto questo esercizio. E chi ha votato? Io ho votato la Gabanelli, ma non l'ho votato la Gabanelli. Ma perché lei ha votato la Gabanelli? E soprattutto perché si è iscritto alle Quirinarie? Una donna. Ascolti, io lo so che la Gabanelli, primo, siccome è una persona intelligentissima, non avrebbe, sono sicuro che se non ha già fatto un comunicato, comunque ringrazierà chi l'ha votata e chiaramente rinuncerà alla cosa. Io ho deciso tra Rodotà e Gabanelli, so che Rodotà, il problema di Rodotà è che è un signore di una certa età. Ma quello che vuol dire? Che vuol dire? Cioè, se vogliamo Grillo gli dava, Grillo del tempo fa, 3 anni fa, gli dava del maledetto. Del maledetto, perché prende 8.000 euro di pensione. Nico, grazie. Il vitalizio di ex parlamentare, al quale peraltro ho diritto, dopo 5 legislature e i contributi che ho versato, è fra gli emolumenti che da tempo destino ad attività benefiche. Non cumulo. Ceausescu! Beh, uno le attività benefiche, ovviamente, a parte che bisognerebbe presentare ricevuta. Appunto. Vedere cammello per, no, com'è la... Prima vedere cammello, poi dare merce. Esatto. E poi comunque uno la beneficenza la può ritirare in qualsiasi momento, cioè non è che... D'altra parte però, insomma, non è che queste pensioni lui le ha rubate, cioè non... però no, ne prende, le guadagnate, prende 31.000 euro di pensione, lorde, signor Amato, uno dei favoriti alla gara per diventare presidente della Repubblica. Ma l'audio più clamoroso di Amato fu il 26 di agosto, quando disse: io sono stato pressato per rientrare in politica nel 2001, è stato pressato. Da allora sono venuto svolgendo varie attività, e sempre vi assicuro perché mi è stato chiesto di farle, sono stato addirittura pressato perché le facessi, compreso il rientro in Parlamento nel 2001. Che io non desideravo fare. Beh, se uno non desidera rientrare in Parlamento, c'è solo una cosa da fare: dire no, virgola, grazie. Bene, siamo qui con Filippo Facci. Ciao Filippo, come va? Bene, anche se io stavo per cenare, poi voi mi fate sentire amato, insomma. Lo ma tu come lo chiameremo? Ma cosa ceni alle 8 e 10 come i vecchi? Ceni alle 8 e 10 come gli anziani? No, io normalmente ceno alle 7 come nei popoli evoluti del nord, però vabbè, sono cose che voi non... Ma cosa ti mangi? La minestrina e poi vai a letto alle 9? Di chi è questa voce sgradevole? Di Amato? È di Parenzo che sta sul coso. Ma perché è così sgradevole per te Amato, il signor Ama? Cosa ti ricorda l'immagine? Io non lo so, io ne ho scritto anche oggi per domani e la cosa folle è appunto che bisogna tornare a scriverne. Perché? Perché lui è così, lascia così poco il segno che ci si dimentica di tutto il popò che ha fatto, cioè non ha fatto in vita sua questo tartufo, questo professorino la cui parola non vale niente, insomma, questo burocrate che poi cioè è vero che non è che c'è l'elezione diretta, però se piace alla gente uno non è mica un male, ecco. Invece questo chi è? L'idolo dei cerchiobottisti, dei presentatori di libri, il potere per il potere, insomma, che tutto quello che è più estraneo possibile all'identificazione minima, io dico minima, ma tu ce l'hai con lui, tu ce l'hai con lui perché tradì Craxi, diciamo la verità. Diciamola tutta, però. Tu ce l'hai con lui perché fu, diciamo, uno che fu uno schifoso traditore di Bettino Craxi, che infatti gli no, quello è il modo che ha favorito la maniera in cui io ho potuto approfondire la sua conoscenza. Che è diverso. Ma perché fu uno schifoso traditore, dici? Ma voglio dire, stiamo scherzando. Che ne so, dimmelo tu, io non me lo ricordo, sono cose antiche. Cioè, perché fu uno schifoso traditore di Bettino Craxi? Ma allora, Craxi ha preso Amato. L'ha trasformato in parlamentare, sottosegretario, ministro, vicesegretario, vicepresidente, presidente del consiglio, incarichi di ogni tipo, sempre al riparo dalla necessità di raccattare consenso popolare, finanziamenti, queste cose sporche, schifose. Dopodiché, appena Craxi ha ricevuto gli avvisi di garanzia, Amato ha detto: Craxi è un uomo finito, ha fatto finta di non averlo mai conosciuto in vita sua, non è mai andato a trovarlo da Mametto, non gli ha fatto una telefonata, tanto che manco ai funerali è andato, ed è passato nel PD a collezionare nuovi incarichi. Cioè, che cazzo devo pensare di un uomo così? Adesso dal punto di vista morale, poi ci sono le questioni di contenuto, se volete. No, ma adesso ti faccio sentire al mondo per quale ragione deve diventare. Cioè, qua va capovolta la domanda: perché, chi è Amato? Qual è il punto? Ma che è professore universitario, che cazzo ne so? Boh, e allora? Che ne so, presidente del consiglio è stato, giurista. Conosciuto all'estero, ma che conosciuto all'estero? Ma non lo so, dicono. Ditemi un'opinione memorabile di Amato, ditemi un convegno dei mille che organizza che si ricordi. No, effettivamente. L'elaborazione politica più bella che ha fatto Amato è stata quella del triciclo, ve lo ricordate? Ma cos'è il triciclo? Cos'era? DS Margherita plus D, no, manco ve lo ricordo. Ah, sì, me lo ricordo. Sigonella, l'ha fatto lui, capito? Poi cosa ha fatto? Tutto. Ma Sigonella che c'entra? Ma Sigonella grazie l'ha fatto. Che cavolo dici? Sigonella è stato Craxi, che c'entra Amato? Dal punto di vista giuridico non sapete un cazzo, perché dal punto di vista giuridico fu il dottor Sottile a inventare le scamotate. Adesso farò sentire dopo la pubblicità quello che pensa Grillo di Amato. Quello che pensa Grillo di Amato. Intanto pubblicità. La zanzara. La zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. Se parlano di Amato, parlano del cassiere di Craxi. Parlano di uno che ha fatto il cassiere, il tesoriere di Craxi per 10 anni insieme a Berlusconi. Ma se prepongono Amato, allora vuol dire che sta succedendo qualcosa, si stanno suicidando. E non venite a parlare di responsabilità per il Movimento 5 Stelle. Noi siamo dentro da un mese e mezzo, non possiamo aver distrutto noi la governabilità di questo paese. L'avete distrutta voi con questi inciucetti. È giunta l'ora di andare a letto. Ad occhi chiusi. Oh, Ferrara diceva che con Bonino al Quirinale mi faccio seppellire vivo e Rodotà si butta dalla torre, si avvicina alla torre. No, funziona? Speriamo di no. Sembra il motore di un aeroplano. Ho fatto un tweet, ho detto, ho già detto del suicidio della Torre Velasca nei casi Rodotà eccetera, con Bonino mi faccio seppellire vivo. Ma poi me la dovete spiegare a me sta cosa, però. Cosa? Ragazzi, cioè, non c'è l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ma vi fa schifo se c'è una persona che piace persino, perché Pannella, caro Cruciani, ha ragione. Ma oddio che parla con sto Pannella. Piace persino a tanti italiani. Ma chi l'ha detto? Che, ma chi l'ha detto? I sondaggi? Chi l'ha detto che la Bonino piace a tanti italiani? Chi l'ha detto? I sondaggi? È da 45 allora, anni che è lì, da 45 anni, allora, 45 e basta, dai, su. Io mi rendo conto che i sondaggi hanno dei limiti e che se ne fanno 100 che mettono tutti in testa alla Bonino e arriva poi Cruciani e dice che non è vero, è più autorevole Cruciani. In questo hai perfettamente ragione, ma questo non toglie che la Bonino comunque sia oltre sì, che popolare, perché della Gabanelli sai che cazzo me ne frega. È il mandarinato, è il mandarinato della, di Bonino Pannella, come dice Giovanni ma Negri, il mandarinato, mandarinato ma il mandarinato, dai, da 45 allora, anni in sella, dai, su, padroni del partito da 40 anni, ma di che parliamo, dai, su, dai. Vabbè, poi senti, si può dire una parola? Allora, io non so cosa sia sto mandarinato, eccetera, eccetera, no, so che voglio dire, è la, allora, diciamole proprio tutte, è donna, sì, è la più giovane di tutti i papaveri, vecchi, ottantenni, eccetera, che sono stati nominati, sì, è relativamente carismatica, sì, è istituzionalmente istruita e con esperienza, sì. Che cosa vuole, qual è il problema? Che non è ultracattolica? No, che, figurati, che mandarinato è amica di Pannella, cioè non figurati. Ho capito qual è il problema della Bonino, cioè, ma io capisco in tanto. Sei d'accordo allora, con Parenzo, allora, devi preoccuparti, vera, ti, per ti devi preoccupare di essere d'accordo con Parenzo innanzitutto. Vabbè, ho capito, per errore può capitare, però voglio dire, cioè, nella tua foga anticonformista grillina di questo periodo, Cruciani, cioè alla fine, a parte la cazzata mandarinato, cioè perché non va bene la Bonino? Ma se perché gente che predica bene razzola male, il contro finanziamento pubblico quando prendono soldi dallo Stato da una vita, dai, su, non mi fare parlare di queste cose che mi dà fastidio, dai, su, già basterebbe questa cosa, basta questa cosa o no? No. Non basta, benissimo, ho capito, dopodiché meglio la Bonino Amato, se devo scegliere messo di fronte tra Bonino Amato chi scelgo? Bonino, è vero, sì, Bonino. Ah, ho capito, e gli altri? Ma gli altri chi? Allora, parlami della Cabanelli innanzitutto, delle culinarie. Ma la Cabanelli fa la giornalista, ma che mi frega, non voglio perdere un secondo, non diventerà Presidente della Repubblica, no, e punto e basta. E Rodotà? Oggi è favorito. Non mi piace perché, cioè, oddio, meglio lui di chiunque altro, lo metto al secondo posto. Addirittura, diglielo a Ferrara allora, va. Ho capito, ma non è che io mi identifico per forza in tutto quello ma che, no, che dice Ferrara. Ho detto, diglielo a Ferrara così, mica perché ti devi identificare. Tu non ti butti giù dalla torre se fanno Rodotà, no? Ma guarda, io sono già caduto da abbastanza torri negli ultimi anni, quindi è meglio che ci voglia dire. Cioè, guarda che Rodotà è uno di quelli che dice che Berlusconi è ineleggibile, che è contro la Costituzione, che di tutto di più, Vabbè, comunque. Chi se ne frega, lo dicono tutti questo, e tanto Berlusconi è lo stesso, pure Violante lo diceva. Ciao Filippo, grazie. Ciao. A presto, ciao. Pubblicità. La Zanzara. Hai visto che mi ricordo del tuo nome, una volta mi hai punzecchiato talmente bene che me la sono sentito il mio mezzo culetto tutto gonfio il giorno dopo. L'estate mi tortura. Ma il cicciolino cinese, ne vogliamo parlare del cicciolino cinese? Il cicciolino cinese, dov'è? Lo voglio conoscere, voglio un ma esistono gli attori porno cinesi secondo te, Davide? No, ma sai perché? Il tema è molto, è questo, io ne ho dibattuto in questi giorni. Sì, con chi? Allora, con chi? Non vorrei essere, con degli esperti del tema, non vorrei essere volgare, però forse ormai si può dire tutto in questo lupanare, certo, che lei ha trasformato. Certo. Sì. Che una volta era una radio, è diventato un po' stribolo. Sì, assolutamente. Comunque, questo che dicono che i cinesi... Sì, chissà se questa trasmissione piacerà al nuovo presidente di Confindustria, peraltro. Non so. Signor Benedini, quello che sarà, che diventerà, bah, chissà. Dicono che i cinesi, dicono, però di contrato, cioè, sì, hanno, diciamo, il pene piccolo. Dicono. Allora io magari sono leggende, che vuol dire? Cioè, no, questo che dici? Ma sei razzista? Sei di un razzismo spaventoso? Ma che ne sai? Che ne sai? Per esempio a me mi manca che le manca? Un cicciolino cinese. Hai capito? Scusa, tu dici ci sarà un motivo per cui non ha provato un cicciolino cinese? Esattamente. Il signor Staller in verità in questo caso andava escludendo. Però scusa, se la Gabanelli può fare il Presidente della Repubblica, perché non lo può fare per esempio Vincenzo Mollica, il Presidente della Repubblica? Che ne so, Vincenzo Mollica. Oppure Marzullo, perché non Marzullo? Marzullo anche sarebbe bellissimo, perfetto. In faccia, sotto i piedi, tra le dita, e comincia la partita. Eccoci, Luigi, provincia di Bari. E perché non Renato Farina, ad esempio, visto che era già una Betulla, Luigi, provincia di Bari. Ma il nostro amico Betulla, no, dai. Luigi, dica. Pronto? Sì, vai. Sì, senti, cioè io ho sentito un sacrifico, ho aspettato due giorni praticamente. Comunque, tutto bene. Il discorso è che volevo fare un discorso un po' diverso, anche se non c'entra niente per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, che deve essere una persona competente e quant'altro, ma io preferisco che venga rappresentata da quel che un pochettino l'Italia. L'Italia è la culla dell'arte, quindi sì, noi dobbiamo semplicemente... Sì, chi facciamo? Prendere... Un pittore? Chi facciamo? No. Dai, io su... sono pittore... Scusa, aspetta. Io quello che intendo, chi facciamo? Uno scultore, no, un collezionista d'arte, chi facciamo? No, la mia proposta è quella di Filippo D'Averio, che è una persona abbastanza competente. Filippo D'Averio, io lo conosco benissimo anche da vita, una bravissima persona, però non è che può far presidente della Repubblica. Un momento, mi fa finire. Ho aspettato due giorni qua per parlare con Allora, noi dobbiamo cercare di tenere adesso, al di là di Filippo D'Averio, dobbiamo cercare di avere un presidente che rappresenti effettivamente quella che un pochettino la situazione dell'Italia. L'Italia non è la politica ormai se ne va per i fatti propri, quindi dobbiamo cercare... Ma non è vero, anche questa cosa qua è una stronzata, bisogna mettere uno che fa il Presidente della Repubblica, lo faccio in maniera normale, cioè poi per carità, i Presidenti della Repubblica possono impazzire, possono diventare dei funamboli, possono cambiare carattere, possono essere una sorpresa, però... No, assolutamente, io quello che dico è che noi dobbiamo essere seri, la maggior parte... Vabbè, allora parte lei propone Filippo D'Averio, non si farà, benissimo, arrivederci. Giorgio da Pescara, buonasera, Giorgio. Buonasera, dottor Cruciani. Vada. Senta, io volevo, probabilmente pensavo a Mago Zurlì come Presidente della Repubblica, perché la cosa che mi sorprende di più è... il fatto il Mago Zurlì, perché io devo parlare con lei che dice... Sto provocando, non sto facendo nient'altro. Ma la cosa che mi sorprende di più è che anche il Movimento 5 Stelle, ma soprattutto Grillo, il momento che va a fare i sondaggi e mettere Gabanelli, anche lui si è fatto prendere dal berlusconismo che sta in giro, cioè le televisioni, rappresentare le televisioni. Cioè qua ci vuole gente seria. Cioè chi ha fatto il Presidente della Repubblica fino ad oggi ha fatto la storia dell'Italia, quelli che ci hanno difeso sulle montagne, quelli che hanno fatto... Cioè mi sembra una cosa seria. Mettere quello mi sembra un po' azzardato da parte di Grillo, se vuole rinnovare. Vabbè, comunque, ha ragione sulla Gabanelli. Ma non siamo un talk show, ma la Gabanelli va benissimo a fare le inchieste. Mi stupisco come ancora alle 20:24, caro Parenzo, la signora Gabanelli non abbia detto pubblicamente e chiaramente no, virgola, grazie. Non è possibile, cioè una cosa di questo tipo, non è possibile. È bello. Non può fare il Presidente della Repubblica, è una follia totale, non ha senso, ma lo sa pure lei che non è adatta non a fare il Presidente. Non può la televisione. No, ma va benissimo, il Presidente della Repubblica, in un altro sistema, con l'elezione diretta, con i poteri del Presidente della Repubblica, uno dice un attore è diventato Presidente della Repubblica, no? Va benissimo, però è un altro sistema, cioè è un'altra roba. In questo caso il Presidente della Repubblica è una figura particolare in Italia, si deve adattare a certe cose. Vabbè. Sì. Grazie, dottor Cruciani. Flavia, come stai dal castello? Buonasera a tutti, come state? Quanto tempo. Guarda, qui abbiamo avuto un sacco da fare col tritone, la sirena, è arrivato il rombo. È arrivato Nostradamus. Chi è arrivato? Il rombo, Nostradamus, il topo Gigio. Chi è questo? Topo Gigio, Nostradamus e rombo, capito Lorenzo? Vabbè, ma la situazione è degenerata notevolmente. Poi mi hanno portato una mappa importantissima che si trova in mezzo al mare, però in un mare che non esiste, quindi bisogna ancora capire dove sta. Certo, bisogna capire, è fondamentale, non c'è dubbio. No, ma comunque ci stiamo divertendo da morire qui al castello, ogni giorno succede qualcosa di eclatante. E niente, quindi che vi devo dire? E niente, dire? Devi cambiare psicofarmaci praticamente, secondo me, guarda. Scusami, Flavia, adesso io dico il una cosa. Il psicofarmaco è la fantasia. Che dicono lì al castello delle elezioni del Presidente della Repubblica? Chi, perché, chi vuoi fare tu? Ma perché? Vabbè, glielo chiedo, perché anche al castello della Cimavento parleranno delle elezioni del Presidente. Ma quale castello? Non esiste alcun castello, lo vuoi capire o no? Io spero che sia Dario Fo. Come, a me, ma Dario Fo ormai non ha più possibilità, cioè all'inizio si pensava così, ma i 5 Stelle pure non l'hanno votato, per cui... Ma prima dobbiamo fare un governo, no? Dici? Secondo me prima bisogna fare un ecco governo. Perché non vieni consultata tu per l'elezione? Per l'elezione. Perché è già casino abbastanza, capito? Perché non vieni... Io ho predetto che secondo me il nuovo premier sarà Renzi, l'ho messo per iscritto, facciamo una scommessa. L'hai messo per iscritto dove, scusa, che era Flavia? No, sarà, scusa. No, è quello che penso io, sono cioè strega. Il prossimo premier quando, scusa, se dici fra qualche mese, fra qualche anno, non è che è una grande intuizione questa no, cosa. No, no, sarà tra qualche mese Renzi, sarà il premier. Tra qualche mese Renzi. Tra qualche mese Renzi. Sì. Sì. Una roba che ha lecchiato qua e là, ha lecchiato due stronzate qua e là, e lì nel castello, che non esiste nessun castello, nessun animaletto, la situazione è veramente grave questa. Dice no, che guarda, tu hai leggiucchiato qua. Ci sono talmente tanti, c'è cioè il tritone che sta adesso, ci sta. Chi è che c'è? Il tritone. No, che cos'è il tritone? Tu ti immagini gli imprenditori della Confindustria a casa e sentono il cicciolino cinese e a un certo punto dice il tritone, il castello. Ma di che parliamo? Vabbè, ma ho capito, ma se questi qua nascondono i nomi per il Presidente della Repubblica dovremmo pur parlare di qualcosa noi, no? Cioè... Ma guarda, no, il tritone è un personaggio mitologico che esisteva prima del governo che c'era qua, quindi parliamo della mitologia greca, il tritone, quindi sì, insomma, però... se lei non lo conosce... Io voglio capire, no. Oltre Dario Fo, tra i nomi che si fanno, lei, signor Avento, chi preferisce come Presidente della Repubblica? Giuliano Amato, per esempio? Signor Giuliano Amato? Guardi, in questo momento, secondo me, io non preferisco nessuno. Ma si è fidanzata poi? Si è fidanzata ancora? No, niente. Niente? Trombato? Nulla. Ma manco quello. Vabbè, no, dai, ti credo, senti come sta? È evidente. Dai, senti su. Come sta. Ma lei deve fare l'amore con qualcuno, signor Avento. Ma se vuole con lei, non so. Vabbè, questo se ne può parlare, però. Ho capito. Ma, però così adesso pubblicamente lei ha messo sul piatto questa cosa qui, ormai non possiamo più farlo. Ma dove? Io mandate le foto. Ovviamente, una mia battuta. Vabbè, una battuta. Ma mandami le foto così vediamo se c'è tutta quella gente, tutti quegli animali lì. Mandami la foto quando sei lì del castello. Ma lei magari se ci incontriamo non ci incontriamo nel castello, ci incontreremo in un'altra residenza, non nel castello. Il castello Vabbè, non si può entrare. Il castello è bellissimo, non lo toccate, che almeno un sogno in questo però mondo. Scusi, lei sta mentendo a proposito della sua attività sessuale, secondo me, eh? No, assolutamente no. Ma guardi, perché? A quanto siamo arrivati? 9 mesi, 10 mesi, un anno? A quanto siamo arrivati? Quasi due anni. Sì, quasi 2 anni, ma dai, su, ma basta. Con questa... No, un anno e mezzo, no. Un anno e mezzo, ma... Un anno e mezzo. Ma un anno e mezzo, io non ci credo, un anno e mezzo, dai. Cioè, no. La verità. Ma gli animaletti del castello le fanno male a lei, Ma no, molto. No, gli animaletti sono persone amorevoli. Ho capito, però mi sa che... Vabbè, comunque, abbiamo la pubblicità, torniamo tra un attimo dopo la borsa. La zanzara. Non mi moleste moschitto. Non mi moleste moschitto. Siete delle merde! Non mi moleste moschitto. Why don't you go? Sei ancora a casa, Simo. Non mi moleste moschitto. Let me eat my burrito. Non mi moleste moschitto. Eccoci qui, Alberto da Verona. Buonasera, Alberto. Sei a casa, Simo. Vada. Sono d'accordo con Facci stasera, purtroppo. Perché d'accordo con Facci? Perché ha detto la verità, mi meraviglia di lei, l'ha detto lei le trottate stasera. Sul Partito Radicale che prende i soldi, 45 anni la Bonino che è lì, ma mi meraviglia di lei, che la stimo molto. Ma perché non si può dire, questa è la mia opinione, ma cosa vuole? Cioè non ho capito, questa è la mia opinione. Ma su... che puoi dire, ma è una stupidaggine della Bonino, e lei se l'è chiesto perché. Non ho capito, scusi. Se si è fatto, se si è chiesto, perché la Bonino e il Partito Radicale sono 45 anni che sono lì. Dove c'è stata gente come Sciascia, Bertazzi, Massimo Dugno, Massimo Teodori, Mellini, Tortola, hanno fatto di tutto e di più. Allora... E malgrado questo è un partito che non ha niente, non c'è niente. Si è fatto la domanda di perché siamo ridotti così. E che ne so, perché siamo ridotti così? Beh, se la faccia. Comunque, Ferrara ha detto che si sotterra vivo, eh? No, sì, ma io ho una ruspa che non uso più, un escavatore. Sì? E lo posso mettere a disposizione. Vabbè, ma non sia così cattivo nei confronti del povero Ferrara. Ma come si fa una cosa del genere, dai? Vabbè, come ma è una provocazione, dice, con la Bonino si sotterra vivo. Dunque? E io gli metto a disposizione l'escavatore. Ah. Lui ha detto una puntata. È proprio disumano. Lei è disumano. Lei è disumano. Francesco da Rimini, buonasera. Brutta persona, disumano. Ma è una bruttissima persona. Francesco. Però la Bonino ha ragione. Allora? Io ascolto la Zanzara ieri sera quando finisco di lavorare. Sì. E quando arrivo a Cesena godo. Oggi la trasmissione la sento un po' con questa storia Bonino, Rodotà. Fatto, non cambia niente. La cosa bella di questa cosa è che noi abbiamo 490 grandi lettori e se ci eleggono un incapace sapremo almeno chi l'ha votato. Allora? Non valgo niente. Però quello che volevo dire, quello che mi ha trasalito l'altra sera, è un argomento che non c'entra niente con... Vabbè, non si preoccupi, vada pure. Venerdì sera, forse vedendo, scherzando, lei parlava, cioè un ascoltatore diceva che, oppure lei che avrebbe, c'è qualcuno che vorrebbe chiudere la trasmissione, e lei avrebbe fatto le barricate per... Ma io non ho affatto detto una cosa di questo tipo, non... Ma è evidente che farei le barricate se qualcuno mai avesse intenzione di chiudere la trasmissione, ma era una provocazione, non era una roba. No, ovvio. Cioè, no, appunto, perché era questa provocazione che mi ha stupito, perché lei tutte le volte che c'è qualcuno che protesta per qualunque cosa, lei dice che non serve, che non c'è, cioè, uno sciopero, una manifestazione, una qualunque cosa per manifestare il proprio dissenso non serve. Vabbè, allora la conclusione qual è di questo suo ragionamento, detto molto tra virgolette ragionamento, caro Francesco? In senso stretto, se la cosa tocca a lei ci può essere la mobilitazione, se tocca agli altri... Ma quale mobilitazione? Ma di cosa sta parlando lei? Vabbè. Salvatore da Chieti, Salve, buonasera a tutti, salve. Sono, prego, Salvatore Marino, il leader internazionale del movimento neomaschilista, antifemminista, sì. Maschio 100%, associazione culturale discriminata dalle femministe. Scusi, signor Salvatore. Non conosco questo io. Scusi. Sono contro le femministe, le donne, le femminaziste al Quirinale. No, le femministe non devono stare al Quirinale. Scusi un attimo, signor Salvatore. Mettiamo le cose in ordine. Lei si chiama Salvatore Marino, giusto? Sì, alias, cioè leader del movimento Maschio 100%. Perché esiste un movimento che si chiama Maschio 100%. Per i diritti dei maschi, per i diritti dei maschi discriminati da tutte le nostre istituzioni ipernazi femministe, ormai. A nazi femministe. Scusi un attimo, Parenzo, tu come fai a conoscere questo signor Salvatore da Chieti? Conosco benissimo, perché questo simpaticissimo pazzo lo invitai quando facevo Iceberg e lui si candidò con il suo simbolo alle elezioni. Addirittura. E io invitai lui, sì, questo personaggio maschio, cioè, mi divertivo, non sapevo che... Sì, come no, certo, io ho fatto parecchia politica, vengo anche dal Movimento Sociale Italiano, che vengo dal Gaetano Saia, un movimento politico mio, sì, mi sono candidato col Movimento Sociale Italiano, ma adesso ho la destra cristiana europea, l'unica vera destra antifemminista e anche cristiana filo-islamica, quindi veramente maschilista al 100%. Ma lei, scusi un attimo, ma lei ancora non è stato ricoverato da qualche parte, no? Ha avuto dei problemi? No, grazie a Dio, diciamo che siamo in una repubblica apparentemente democratica, anche se non lo è, l'articolo, certo, 21, essere antifemministi, come femministi si può essere, antifemministi no, i diritti dei maschi sono ormai vilipesi, calpestati dalle istituzioni, sì, che sono ormai ancora in circolazione. Scusa, Davide, non... sono invasi ormai. No, dico, non pensavo... Sì, aspetti, Salvatore, un attimo, scusi. Non pensavo che questa lista ce ne fosse ancora in circolazione. Sono felice perché ne avevo perso. Legamaschio.eu è un sito, certo. Ma ho capito, uno può aprire tutti. C'è maschilismo.it, maschilismo.org. Noi siamo la, diciamo, una destra religiosa. Il maschilismo nasce dalla Bibbia, dal Corano e dalla Torah ebraica. Quindi noi nasciamo dalle religioni. Ma chi nasce noi? Chi? Ma chi noi? Ha dato a noi maschi il potere, no la Boldrini o il Quirinale, la Gabbanelli che vuole dare Grillo, la Gabbanelli. io sono contro una donna, anzi diffido il Quirinale a mettere una donna che mi discrimina in quanto maschio, perché non ho istituzioni maschili. Il Ministero delle Pari Opportunità femminili e femministe sono anticostituzionali perché discriminano i diritti dei cittadini maschili. Ma Parenzo, ma di qualcosa tu, per favore, io, dai, io penso che l'ospedale più vicino deve essere attrezzato immediatamente, perché nel 2010 me lo ricordavo, non a questi livelli di pazzia. Mi piace risentirlo, vuol dire che vivo ancora. Dopodiché lei deve tornare ancora qualche anno nel posto dove era stato rinchiuso e improvvisamente aperto alla gabbia, insomma. Ti invito a leggere San Paolo di Tarso. Non leggo nulla. San Paolo di Tarso. Ma di che stiamo parlando? San Paolo di Tarso, Salvatore, scusi. Ma il movimento maschio 100%. Allora, vediamo una cosa. Parliamo della legge uguale per tutti dentro i tribunali. Fabrizio Corona sta marcendo in carcere per non ha ucciso nessuno. Ma che c'entra? Quei due ragazzini a Udine, tra poco si vanno a fare una vacanza per aver ucciso un 67enne. Quindi, dinanzi alla legge, già non c'è la parità. La legge non è uguale per ma tutti. Ma io voglio capire, carcere, le donne si fanno gli arresti domiciliari. Scusi, quindi, ma lei non passa nessuno da quelle parti lì ogni tanto a dare una punturina, a calmarla un attimo, a ricoverare? Chi sarebbero le nazi femministe? Chi sarebbero queste? Le istituzioni italiane, migliaia di istituzioni, le nazi femministe, di antiviolenza che poi strumentalizzano la violenza. Ma il capo chi è? Lottiamo. Io leggo qua adesso. La violenza maschile. Scusi un attimo. I maschi subiscono la violenza. Ma di chi? Delle donne? Allora, la violenza sui maschi è superiore alla violenza sulle donne. Ma solo che i media non ne parlano, in questa ragione il simpatico Grillo. Solo che il Grillo non ha le palle per poter governare l'Italia, cose che io avrei. Ah, lei avrebbe le palle. Io sono il Grillo nero, un Grillo vero, un Grillo nero che non scappa da media, che avrei il potere di salvare gli italiani. Diciamo Salvatore, il salvatore degli italiani. Dopo Grillo forse gli rimane me. Scusa, perché Parenzo, ma questo qua secondo te tu che l'hai conosciuto? Simpatico, anzi, complimenti a Parenzo. Aspetti, Luca, non mi fidate più. Vabbè, Salvatore, guarda, io questo qui l'ho invitato 3 anni ancora quando lavoravo a Milano. Sì, certo. E ti assicuro, l'avevo invitato perché avevo fatto una puntata che si chiamava Gabbia di Matti. Ricordo ancora. No, c'era lui, poi c'era uno che presentava le liste e diceva io non voto, aveva la lista io non voto. Sì. Quindi avevo riunito tutte le liste più strane, c'era anche questo signore maschio 100%. Devo dire che finita la puntata non c'è stato neanche bisogno, perché c'era un servizio di Croce Rossa. Sì. E io non ho fatto neanche il tempo a salutarlo. Croce Rossa. Sto benissimo, sono sanissimo. Sono entrati con le barelle dura alla fine, ma vai a intervistare le femministe che parlano che solo un maschio morto non stupra. Ma chi l'ha detto? Parlare con le provocazioni femministe. Ma chi è che sono? Le reti antiviolenze sono le reti di violenza. Il femminismo è un movimento violento, un movimento di misandria, di odio contro i maschi, di discriminazione contro i maschi. Ma pensavo che sia malissimo per le pari opportunità maschili. Scusi, lei parla di nazismo femminista, giusto? Poi leggo qui. www.nazifemminismo.it. Vabbè, ho capito, Salvatore, un attimo. Lei parla di lottiamo tutti con Dio. Leggo qua perché adesso ho fatto una piccola ricerca. E lottiamo tutti con Dio. Gesù Cristo e Maometto, lottiamo uniti per la nostra sacra e santa libertà. Certo. Ma dai su, ma di cosa stiamo parlando? L'ho portato Heidelberg anni fa. Ma dai su. Scusate, ma c'è la Bibbia, il Corano, addirittura anche la Torah, ovviamente a Gerusalemme, le femministe ebree hanno criticato gli ebrei ortodossi, che hanno ragione. Della preghiera. Voi siete esperti. Io di me, penso che ci vogliono almeno 3 pattuglie. No, ma che 3 pattuglie? Siamo in un articolo 21, siamo in una libertà, in una Repubblica Democratica, libertà di pensiero, o le femministe hanno tolto anche il pensiero. Ma le femministe, chi sarebbe il capo delle femministe? La Santa Anche, per esempio, la Santa Anche, ti piace? Le pari opportunità femminili, quello è già il quarto Reich, cioè il quarto Reich rosa, ministero pari opportunità femministe. Perché non c'è un ministero pari opportunità maschili? Perché non c'è? Una repubblica fondata sul femminismo e sulla discriminazione dei maschi. Scusi, ma lei è fidanzato, sposato? Lei è fidanzato, sposato? Che fa? No, con le leggi che abbiamo in Italia, un uomo sposato poi diventa separato e barbone. Quello è un altro discorso. Il simpatico maresciallo Adornato, di cui mi sono occupato anche di padri separati. Vabbè, questo poi non è che adesso, scusi un attimo, non è che per difendere i padri separati abbiamo bisogno del movimento maschio al 100%, cazzo! Sicuro non ci penseranno le femministe dai. O le avvocatesse o a difendere i padri separati. Scusi, allora mi dica una cosa. Il maresciallo di Carabinieri Adornato che... Ma chi è sto maresciallo Adornato? Chi è il maresciallo Adornato? Me lo intervistate da un attimo, perché io faccio un programma vera informazione. Collaboriamo con la Zanzara. Fate vera informazione con la Brescia. Scusi un attimo, signor Salvatore Marino, Salvatore Marino, del Movimento Maschio 100%. Ti immagini se da questa sera per caso ti venisse il tanto di avviare una collaborazione con questo e allora dice la Zanzara in collaborazione con Maschio 100%, cioè tu ti immagini informazione articolo 21, vera informazione articolo 21. Sì, ma quale informazione? Ma vuole... devi ricoverarti subito, devi ricoverarti subito, volontariamente, se no ti veniamo a prendere noi. Ma chi viene da prendere? Napolitano è stato accusato di essere maschilista perché ha scelto 10 saggi maschi. Obama è stato accusato di sessismo e di maschilismo perché ha fatto un complimento a una donna. Scusi, signor Maschio 100%, la Gabanelli, Presidente della Repubblica, come la vede lei, signor Maschio? Malissimo, perché sarà una attenta alla mia discriminazione, anche vostra. Ripeto. Scusi, ma lei è fidanzato, sposato, cos'è? Non mi ha ancora risposto. A donne. Berlusconi perseguitato in quanto maschio. Ma ci va con le donne o no, lei? Io sì, quelle normali sì, e quelle poche sono rimaste, perché il femminismo ha portato il lesbianismo, ricordiamoci che il femminismo ha portato, cioè molte femministe dicevano il lesbianismo, cioè il femminismo è l'ideologia, il lesbianismo è la pratica, per cui ecco l'orgoglio etero. Scusi, che tipologia di donne sceglie lei? Scusi, se normali, donne normali. Ma che vuol dire normali? Donne etero normali, non sataniste e femministe, perché femminismo è satanismo, vero? Anzi, vorrei fare un incontro col Papa per devo dare il traffico, non ce la faccio. Non ce la faccio, devo dare il traffico. Un attimo, Salvatore, scusi, devo dare il traffico. La Zanzara. Per esempio, a me mi manca. Che le manca? Un cicciolino cinese. Quando la zanzarina. Allora, secondo indiscrezioni, il Partito Democratico porterà una rosa al Cavaliere composta da questi nomi: Amato, Marini, Finocchiaro e D'Alema. Poi, ovviamente, ci sarà un nome nascosto per l'altra votazione, per la quarta votazione. Vabbè. La Gabanelli ringrazia, imbarazzata, si prende una notte per decidere. Insomma, non dice di no. Non dice di no. Una notte per decidere, ma tu ti rendi conto o no che siamo appesi? Dai, su. Io abbraccio fortissimo, ammiro moltissimo la signora Gabanelli. La ammiro tantissimo, signora Gabanelli, giornalista... fantastica, inchieste ma meravigliose. Però se per caso ce la dovesse fare, che roba adesso proviamo a immaginare. Ma votata da chi? Scusa, votata da chi? Spiegami. Già il PD ha detto di no, per cui di che stiamo parlando? Il PD ha già detto di no. Ma pensa il brivido che voglio, io la capisco la Gabanelli, che bravi. Io, ma tu ti immagini il brivido se improvvisamente quando ci saranno le aule riunite, tutti seduti, inizia lo spoglio e cioè che so il nome, D'Alema, Gabanelli, Gabbani e tutti. Vabbè, questa è una puttanata, dai. Maria da Rimini, buonasera. Buonasera Cruciani, dottor Cruciani, buonasera. Vada, dica. Io dica. Sono una persona al di fuori di tutti i movimenti. Vabbè, pazienza. Dunque? Ecco, volevo solo dire, ma scusi, l'ho ascoltato dall'inizio. Ho soltanto un nome le volevo dire. Che nome? Antonio Di Pietro. Ah, beh, sicuro, guardi, è in pole position Di Pietro. Guardi, è lì già che si prepara la giacca per ma entrare al Quirinale. Nessuno ne così parla. Così oggi l'ha preso per il culo, Grillo, Grillo sarebbe, oggi la... Aspetti, perfetto come presidente. Le faccio sentire come l'ha preso per il culo Grillo quando ha parlato della Gabanelli, cioè sarà contento, sarà contento Di Pietro. Grillo, la Gabanelli sarà contento Di Pietro. Fra poco glielo faccio sentire. Grazie Alberto da Bologna. Grazie, buonasera. Alberto, dica. Buonasera. Vada. Ma il pazzo c'è ancora? Salvatore c'è ancora? Ma no. Io non sono un pazzo, sono il più lucido e più saggio di tutti. Sì, italiani. Beh, sì, sicuro. Infatti i pazzi dicono sempre così. Salvatore d'Italia, dopo Grillo vi tocca solamente me, solo io posso salvare l'Italia. Maschio quindi. 100%, non c'è dubbio. Ma solo un maschio 100% può salvare l'Italia, ma non c'è una femminuccia. Scusi un attimo, Salvatore, ma lì in Abruzzo lei non l'hanno ancora rinchiusa da qualche parte? No, cioè nessuno è intervenuto. Non è intervenuto nessuno del Servizio Sanitario Nazionale. Non rinchiudere, assolutamente. Sono una persona lucidissima, sono un cristiano vero, sì, e sono un libero cittadino, che è un'associazione culturale per i diritti dei maschi discriminata dalle istituzioni femministe italiane. Quindi di che vogliamo parlare? Quello dico pure io, di che vogliamo parlare? chiudere, anche all'interno di, insomma, di molti tribunali che, ripeto, fanno due pesi e due misure sugli stessi crimini commessi da maschi e da donne. Sì. Vediamo il caso Corona, tra l'altro, ma caso Corona, Parenzo, Fabrizio Corona, che alla fine, Parenzo, di qualcosa anche tu, sono delle ragazze che hanno ucciso delle persone recenti, il caso di Udine, stanno, Parenzo, di qualcosa tu, di qualcosa anche, scusi, lei non crede per esempio agli stupri? Crede agli stupri lei degli uomini? Ma io ci credo, allora, non molto, perché l'80-90% degli stupri, ho dei dati proprio alla mano, alla mano, cioè, non... anche dell'associazione del comitato pari opportunità maschili, 90% anche indagini dei aspetti un attimo, aspetti, devo sentire D'Agostino un attimo, della polizia, 90% delle accuse di stupro sono false, sono guardiamo false, il caso di Carlo Parlanti, un attimo che false. Devo sentire D'Agostino, non c'è più, dove andiamo? Lei chi c'era? Deve cambiare il nome del partito, cioè? Deve mettere Pirla 100% garantito proprio. Alberto da Bologna, Alberto. Alberto. Buonasera. Vada. Ah, niente, in mezzo a tutta questa serie di proposte. Fammi sentire D'Agostino un attimo. D'Agostino che ha detto crimi. Polizia, ma me lo ricordo benissimo. Questo però voto. Dico che insomma, c'è stato un grande rinnovamento. Questo è verissimo. Grillo, scusa, a guardarci in faccia, davanti allo specchio, Roberto. A capire che non siamo persone per bene. No? Scusa, a proposito, insomma, di. Mi dico D'Agostino che ha detto crimi o dorme o dice stronzate. Questo lapidario su crimi. Alberto, allora? Niente, io dopo tante proposte un po' particolari che abbiamo sentito stasera dico la mia, un bel Presidente della Repubblica di colore, siamo in linea con gli Stati Uniti, il primo Stato europeo con un Presidente di colore, saremo forse... E che dovremmo fare noi, scusi? Ma niente, appoggiate la mia proposta, troviamo più che altro un personaggio di 50 anni che abbia un minimo di testa sulle spalle ma che sia di colore. Non ho un nome di colore, vabbè, ma lei è malato, cioè non, cioè, ma che vuol dire uno, ma che vuol dire, che vuol dire, divento pazzo. Ma questo non è brutta questa idea, ma che c'entra uno di colore? Beh no, ma io dico una donna o uno di colore, sarebbe stupido, effettivamente sarebbe molto bello un presidente di colore in Italia, primo in Europa, meraviglioso sarebbe. Vabè, maschio? Questo? Sì, questo è meglio un uomo di colore, è meglio un maschio di colore che una donna bianca. È matto. Vabbè, questo ma questo è meglio un uomo di colore, assolutamente. Vabbè, ma intervenite. Dia proprio come Obama. Dia al centralino le sue coordinate che passa qualcuno subito, stasera. Però. Per una bella magari, punturina. Ecco, magari salviamo la famiglia eterosessuale, non come Obama che ha spinto i matrimoni gay, quindi cerchiamo magari. Ah, poi sui gay, un'altra puntata la faremo sui gay. Un po' più seria, ecco, sì, più normale, più cristiano. Non c'è dubbio. A domani 18:30, speriamo che ci siano novità sul Quirinale. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei alle 8, lo dica, a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Duro. Radio 24. La passione si sente.